Allora, buonasera e bentrovati, bentrovate a Entropia Massima. Siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vogliamo dare innanzitutto un abbraccio a chi ci ascolta dietro le sbarre o privato o privata della propria libertà personale. Eccoci come ogni lunedì alla trasmissione delle 8 e un quarto. Anche oggi iniziamo con un po' di ritardo, non ce ne vogliate. Oggi siamo in compagnia di Alberto con la puntata sul ciclo di economia e ambiente. Quest'anno stiamo seguendo durante tutto il ciclo il tema del clima, della siccità, e oggi continueremo ancora su questa su quest'onda. E cedo quindi la parola ad Alberto, che ha preparato per noi un'altra puntata. Bene, allora parlo dei dati recenti, cioè sono tutti usciti alla fine del mese di gennaio, primi di febbraio, cioè questi sono gli eventi, e le notizie hanno qualche giorno di ritardo rispetto a queste date. E la cosa più importante che vorrei citare subito è che le città hanno molto caldo, cioè tutte le città più grandi hanno un notevole livello di calore e vengono date delle indicazioni piuttosto pesanti per le città italiane, perché il testo internazionale dice: le città europee si devono preparare a ondate di calore, siccità e alluvioni. Nella seconda metà del secolo le città europee saranno sempre più colpite dagli effetti del cambiamento climatico. E lo studio ha preso in esame 571 città. La siccità colpirà soprattutto la penisola iberica, l'Italia meridionale, le isole del Mediterraneo e la Grecia. E invece, per quanto riguarda le città anche più piccole in Italia, ad esempio a Parma si potrebbe avere sia un aumento della siccità sia un aumento delle alluvioni. E così continua, no? Lo studio è basato sullo scenario, uno dei peggiori, cioè uno scenario statistico che prevede i livelli peggiori, cioè il livello di una temperatura media globale che aumenta fino a raggiungere un livello tra i 2,6 e i 4,8 gradi. Cioè, vi ricordo che il grande accordo siglato a Parigi nel dicembre 2015 parlava di 2 gradi come massimo, e anzi suggeriva vivamente di tenersi al di sotto di 1,5 gradi. Quindi le nostre città, che nei prossimi anni sperimenteranno invece una situazione completamente diversa. L'altro elemento importante è che la primavera è in anticipo. Questo significa, non è soltanto quest'anno, quindi non è un dato stagionale, diciamo, ma è una constatazione basata sulle rilevazioni, gli studi e le previsioni. Cioè c'è questo, stanno, i dati segnalano questo spostamento, come si può dire, all'indietro, se volete, delle date di inizio della primavera. Una precessione, come si direbbe. Una precessione, bene, sei bravissimo. E che si aumenta, e questo anticipo aumenta man mano che ci si sposta verso il polo nord. Quest'anno 2017 le temperature nell'Artico centrale, cioè nella parte polare centrale, sono state di 4 gradi superiori alle medie. Quindi bisogna tenere conto di questi sbalzi, diciamo, molto forti, e questi aumenti di temperatura che sconquassano completamente. Questo, quindi, quando si parla di scioglimento dei ghiacciai, questo è il motivo fondamentale, cioè questo aumento, questi gradi di temperatura in aumento e che continuano a aumentare. Quindi i picchi, perché si parla sempre no, di... non ci sono più picchi, a questo punto sono delle tendenze. perché i picchi sono ingannevoli, cioè il picco significa che si arriva a un massimo e che si sembra sempre che quell'anno è il massimo e poi tende a calare. Ecco, gli ultimi 3 anni, su questo abbiamo dei dati anche, infatti l'abbiamo parlato la volta scorsa basandoci sulle previsioni del famoso Hansen, e sono 3 anni che è sempre più caldo dell'anno precedente, e il 2017 è stato più caldo e quasi caldo quanto il 2015. Quindi insomma non è un picco, a questo punto è praticamente una tendenza. Allora, contemporaneamente però, anche se l'Artico è più caldo, gli eventi eccezionali nell'est degli Stati Uniti diventano da 2 a 4 volte più probabili, e dal 1990 la frequenza del freddo intenso è notevolmente aumentata. Si ipotizza che il vortice polare, attenzione a questa parola, vortice polare, sia indebolito favorendo l'afflusso di masse d'aria fredda verso il sud. Io ho letto questa frase, non sono sicuro, non sono uno scienziato del clima, però vi dico quello che so, può essere che non sia preciso. C'è questo vortice polare, una specie di, durante l'inverno, sul polo nord c'è una specie di vortice, di circuito di aria molto fredda, una specie, se mi permettete una cosa, non ho ancora accennato, quindi un ciambellone di aria fredda, no? Sul polo. E già 2 anni fa da un lato di questo ciambellone è uscita una corrente di aria fredda che ha investito tutta l'Europa. Ecco, quello che sta dicendo, che dice questa frase, è che il fenomeno si può ripetere, perché si indebolisce il vortice, perché sotto l'aria è calda e quindi è più facile, diciamo, a correnti di aria fredda di uscire verso sud. Allora, questo sembra l'elemento fondamentale del clima, cioè questa doppia indicazione piuttosto pesante. E un altro elemento importante che è stato segnalato sempre in questi giorni è che l'altro elemento che volevo segnalarvi riguarda invece una cosa particolare, cioè l'inquinamento da plastica. Questo significa che abbiamo dei fenomeni particolarmente gravi. Questo ne abbiamo già parlato, francamente, però qui le informazioni continuano a succedersi, nel senso che evidentemente ci sono varie ricerche in corso che producono dati sull'inquinamento delle microplastiche, cioè sono delle particelle di plastica, credo al di sotto dei 5 mm, quindi estremamente piccole, delle molecole direi, e vengono trovate, questo è l'ultimo dato di cui vi volevo parlare, vengono trovate nelle acque imbottigliate, quindi le acque minerali, quindi che dovrebbero essere sicure, eccetera, controllate e via dicendo, e in realtà questa ricerca si occupa di 11 marchi e quindi stiamo parlando del 93% delle acque minerali imbottigliate. Quindi, è un dato incredibile. Avevo sentito tempo fa, si parlava dell'intestino dei pesci che venivano pescati e nel quale sì, si però trovava... quelle erano, se ricordo bene, erano più grandi, cioè erano delle scaglie, dei pezzi un po' che venivano più grandi, ancora isolate dai sistemi di filtraggio delle acque, sempre piccoli. Invece in questo caso queste sono ancora talmente piccole che finiscono sono nelle bottiglie. Piccolissime, e quindi il problema grosso è che si trovano nell'acqua potabile, cioè la distinzione era che quelle pezzetti erano il risultato del degrado, di un certo livello di degrado dei pezzi di plastica più grandi. Quindi venivano emessi, diciamo, da pezzi di plastica più grandi dopo parecchi anni di permanenza nelle acque marine. Queste invece sono talmente piccole che evidentemente nascono per dei motivi completamente diversi, cioè proprio un degrado di tutte le sostanze che sono in circolazione a base di plastica. E il problema è che l'ultima volta che ne abbiamo parlato era una piccola indagine, cioè che riguardava le acque potabili di alcuni posti, non so se vi ricordate, ma alcuni posti particolari, cioè un palazzo reale, un ospedale, insomma, cioè dei posti. Quindi erano, e quindi c'era questo, dovevano essere particolarmente controllate, invece risultavano c'era la presenza di queste micromolecole. Ecco, questa indagine invece è molto più dettagliata e riguarda 11 marche di acqua minerale. Quindi in sostanza quelle sono, dovrebbero essere controllate prima di essere imbottigliate queste acque, e invece evidentemente o non ci sono i filtri sufficienti perché sono troppo piccole. Oh, io vorrei essere chiaro su questo punto: non c'è ancora la sicurezza che queste micromolecole siano nocive. Quello che si sta verificando è che in altre indagini che riguardano certi organi particolari, per esempio i reni, notano che queste micromolecole tendono ad accumularsi all'interno di organi e quindi con, come posso dire, delle potenzialità di rischio molto maggiori. Bene, prendiamoci 2 minuti di pausa, ci ascoltiamo un brano degli Scasso, nostri amici che abbracciamo, salutiamo con grande affetto. E allora torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, il numero per intervenire. Siamo dentro Pia Massima e stiamo parlando di economia e ambiente. Ci siamo salutati prima della pausa musicale con delle statistiche terrificanti sulle microplastiche, da lì che ricominciamo. Sì, prima di chiudere questo argomento volevo citare un articolo che è apparso sul Corriere della Sera del 15 marzo. Devo dire molto interessante, perché lo scrittore, cioè l'articolista, è sicuramente un tecnico, uno scienziato che si occupa di questi problemi, e fa una distinzione interessante, anche se forse non totalmente accettabile. E cioè lui dice: ci sono una serie di applicazioni della plastica che sono assolutamente essenziali, per esempio il rivestimento dei fili elettrici. Quindi immediatamente uno pensa a tutto il sistema elettrico che non si può interrompere, eccetera, eccetera. E viceversa punta il dito, in questo lungo articolo, punta il dito solo come fattore di inquinamento, solo sulle plastiche, diciamo, leggere, quelle che servono per gli imballaggi, per mantenere i cibi protetti, eccetera. E sono poi quelle più usa e getta, diciamo. Quelle più usa e getta, quelle che hanno un utilizzo breve. Le più diffuse, diciamo, in termini, e che soprattutto ognuno di noi è abituato a a utilizzare e buttare immediatamente, buttare subito dopo, buttare immediatamente, e queste sono quelle che inquinano più l'ambiente in misura. Quindi lui punta il dito e dice: state attenti, fate la distinzione, e però tutte le plastiche leggere, cioè quelle appunto per ricoprire, per l'imballaggio, il packaging in generale, devono solo essere non buttatele via, cioè devono essere buttate soltanto nei rifiuti specializzati, eccetera, cioè devono essere recuperate, e quindi entrano in un certo. Quindi teniamola presente questa distinzione, perché mi sembra molto realistica. E quindi il problema, ancora una volta, non è eliminare la plastica in generale, si tratta di eliminare quella che inquina effettivamente. Questa è la citazione, quindi se qualcuno vuole andarla a vedere, l'articolo è abbastanza interessante e può essere letto da chiunque. L'altro aspetto che volevo trattare, sempre restando nel discorso del clima, è quello del del freddo e del ghiaccio. Allora, perché io ho la sensazione che a livello di popolazione in generale ci sia un po' di confusione mentale in questo momento, cioè improvvisamente noi passiamo dal freddo molto pesante con neve nei posti dove non è mai accaduta, e dall'altra poi improvvisamente partono giornate di sole, alcune volte molto calde, e poi ancora inizia la pioggia a dirotto. Però contemporaneamente si parla di siccità, e quindi prima ho detto che a Parma c'era questa indicazione che si poteva avere contemporaneamente alluvioni e siccità, e questa cosa non è di immediata comprensione. Allora il discorso è questo: c'è questa gelo, diciamo, c'è questo riscaldamento del nord dei poli che inducono lo scioglimento dei ghiacciai, e quindi contemporaneamente c'è del gelo perché c'è stato lo scioglimento cioè una diversa orientamento di questo vortice che sta durante l'inverno, e poi contemporaneamente questi ghiacciai che c'è questo non malgrado, poiché c'è questo caldo, continuano a ridursi, e questo è un fenomeno non modificabile a tutt'oggi, nel senso che bisognerebbe modificare i meccanismi di origine del riscaldamento. E quindi provo a leggervi qualche riga di questo articolo, che è molto chiaro, e dice: la tempesta Riley è uno dei più violenti uragani mai osservati. Ha colpito gli Stati Uniti nord-orientale dal 2 e sabato 3 con raffiche di vento oltre 120 km orari. Ci sono stati forti nevicate all'interno dello stato di New York e rovinose maree di tempesta rese più elevate e potenti anche dell'effetto astronomico dovuto alla luna piena. A Boston l'oceano è salito 134 centimetri sopra il livello medio di alta marea. In un secolo, peggio di così andò solo con la recentissima tempesta Grayson del 4 gennaio 2018, più 149 centimetri. Quindi praticamente un metro e mezzo al di sopra dell'alta marea. Quindi un gonfiamento, e con il blizzard, cioè con l'uragano, del 7 febbraio 1978, più 147 centimetri. In un crescendo di episodi cui l'aumento del livello medio del mare dovuto al riscaldamento globale non è certo estraneo. 9 le vittime e 2 milioni gli utenti senza elettricità. Poi si parla di alluvioni in Africa, tempeste e inondazioni in Ruanda, in Kenya, a Madagascar e alle isole Réunion a causa del ciclone tropicale di Masil, che ha scatenato venti a 220 km ora e piogge fino a 200 mm in 24 ore tra il 3 e il 4 marzo. E allora c'è una citazione che dice: anche i grandi di uno studio, anche i grandi apparati glaciali di Svizzera e Norvegia potrebbero perdere il 90% del loro odierno volume entro il 2100 e le alterazioni del paesaggio e dei regimi idrici saranno radicali. Allora, queste cose le ho volute leggere perché stanno sui giornali, nel senso è un questa lettura è dalla stampa e il giorno è aspettate, il giorno è 7 marzo di quest'anno, quindi è recentissimo. E però come dire, a livello governativo sembra che alcuni giornali o alcune pagine di certi giornali non le leggano. Qui sta scritto, cioè questi sono, cioè si sono, ho saltato le citazioni perché sennò è inutile, e però sono tutti studiosi che stanno studiando e fanno misurazioni che sono quelle che vi ho citato. Ecco, questa è la distanza che continuiamo a denunciare, è questa, e questo è l'aspetto importante. Come avete visto, ho parlato di città precise che sono state colpite, e però non riusciamo a renderci conto del continuo peggioramento che si sta verificando. Ancora sempre su questa volta il Corriere della Sera, stessi giorni, parla nuova mappa del gelo, questo è il titolo, così l'Europa si raffredda mentre il polo si riscalda. Nell'Artico toccate temperature di 20 gradi superiori alla media. Ecco, questo io vi ho dato solo il titolo, non vi leggo il resto dell'articolo, però ci sono delle mappe, ci sono tutte le aree colpite, i gradi di aumento nelle varie zone, eccetera. È un discorso un po' più lungo, però varrebbe la pena di studiare un po' per capire bene, cioè essere pienamente coscienti di quello che sta succedendo. Chiaramente questo è il motivo per cui ve lo proponiamo, proprio per... Beh sì, e questo è il motivo per cui continuiamo a insistere. Sono apparentemente sempre lo stesso, cioè sembrano, sono dati diversi sullo stesso fenomeno. Sono un paio d'anni che stiamo insistendo su questo aspetto, perché i dati, come dire, trasformano le previsioni o le paure o le proiezioni in fenomeni concreti, vittime concrete, misure sempre più incalzanti, e non abbiamo invece un corrispettivo nelle attività di governo e nei tempi delle attività di governo. Questo tanto ricordiamo che nei programmi elettorali di qualche un mesetto fa questa roba era praticamente inesistente. Allora passo a un altro aspetto che poi verrà trattato dagli altri amici negli altri giorni, cioè quello che è l'acqua, cioè il problema dell'acqua. Il problema dell'acqua diventa sempre più grave, nel senso che queste aree della siccità si stanno continuamente allargando, investono sempre più paesi, oltre a una buona parte di quelle delle zone italiane. E poi c'è un effetto, cioè l'effetto dei conflitti legati all'appropriazione dell'acqua. Cioè voi capite che ogni volta, come sta succedendo in Egitto, ogni volta che su un fiume come il Nilo viene costruito una diga in Etiopia, il paese a valle si preoccupa del che cali la disponibilità dell'acqua, però questo fenomeno, questo tipo di, come dire, azione e reazione si verifica in un certo numero di paesi. Questo, l'autore che sto citando, parla di 507 conflitti per l'acqua, e inoltre crescono i cosiddetti consumi occulti. I consumi occulti è un concetto apparentemente buffo, ma l'abbiamo già utilizzato in passato, cioè sono le quantità di acqua che servono per realizzare ciascun prodotto. Quindi non so, vi ricordo uno che abbiamo studiato un po', cioè ci vogliono 15.000 litri d'acqua per avere una bistecca, no? E via dicendo. Sono occulti nel senso che non ce ne accorgiamo quando mastichiamo la bistecca, però vuol dire che non teniamo conto di quello che c'è a monte della produzione della bistecca. Lasciamene dare uno di dato a cui sono affezionato. La produzione di un computer si calcola una tonnellata e mezzo di acqua che entra nel processo della produzione di un computer. Quindi, inimmaginabile, no? Esatto. Beh, è sempre la stessa questione, però noi compriamo tranquillamente bistecca e computer senza attribuire loro questo peso, e il risultato sono i conflitti. L'altro elemento importante che volevo ricordarvi è che in questo momento sono stati abbastanza, come posso dire, celebrati i nostri militari all'estero su una diga a Mosul. C'è un intervento militare di difesa di questa diga che è essenziale per il paese. Quello che non si ricorda è che la ditta è italiana, cioè la ditta Trevi, che, come dire, di per sé non c'è niente di male, no? Però è un intervento militare all'estero per difendere una singola diga e la popolazione interessata, ovviamente. Però c'è un po' di confusione, no? Tra la motivazione dell'intervento all'estero e come posso dire, il ruolo effettivo che si svolge poi in questi paesi. Ancora qualche altro, c'è una parte, l'80%, questa è una cifra che devo controllare perché è bella grande, dovrei studiarla un po', delle acque reflue, cioè le acque di scarico, le acque già utilizzate, già consumate, si diffonde nell'ecosistema, e ogni anno sono 800.000 vittime di questo tipo di inquinamento, cioè persone obbligate a utilizzare le acque reflue come per lavarsi o per addirittura bere, come in certi fiumi, lungo le rive di certi fiumi. Quindi ancora una volta c'è una serie di questioni che sfuggono alla nostra immaginazione, ma che sono interessanti. Ok, allora prendiamoci un'altra pausa musicale. Ascoltiamo un pezzo di Kenny Arcana. sont libres et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Lorsque tous leurs chats OGM stérilisent la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage. Il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. La rage, d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage, car ce monde voit rouge, mais de gris ça est entouré parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mises au bout du jour tant de grands apports ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riche de vérité pouvant changer l'humanité. Allora, torniamo in diretta con Entropia Massima, stiamo parlando di economia e ambiente. In quest'ultimo terzo di trasmissione vedremo gli effetti, le conseguenze di questi fenomeni. E soprattutto, come posso dire, i danni generali che stiamo arrecando all'ambiente, cioè quelli di cui ho parlato finora sono il clima, è il meccanismo climatico, il mutamento climatico. Queste piccole notizie sono per attirare l'attenzione su altri meccanismi. Io non posso dire se più importanti o meno importanti, che però sono contemporanei, nel senso che noi dovremmo affrontare, oltre al mutamento climatico, anche questi altri aspetti. C'è uno studio particolarmente articolato, cioè ho letto attentamente perché ignoravo che esistesse un sistema per sorvegliare tutte le navi in navigazione. Ormai l'hanno messo a punto con i satelliti, eccetera, e hanno fatto uno studio utilizzando questo sistema, che è un sistema di controllo, sorveglianza, prevenzione, insomma una serie di attività. Però la cosa importante, loro hanno utilizzato questo sistema e hanno tirato fuori i dati sulla pesca. Quindi in sostanza hanno identificato tutte le navi che effettuano, che erano in circolazione sui mari per impegnate in attività di pesca, e hanno verificato che la pesca frutta più della metà degli oceani, cioè 200 milioni di chilometri quadrati, che significa 4 volte di più dell'agricoltura. Cioè l'agricoltura è sulla terra ovviamente, però lo sfruttamento del mare evidentemente è molto più diffuso, molto più a largo raggio. Scusami, quel dato si riferisce alla superficie